dato che salta all'occhio immediatamente, che incuriosisce l'opinione pubblica internazionale, sono 3 presidenti in 7 giorni. Per il Perù è un record. Ricordiamo che in Argentina nel 2001 ne cambiarono 5 in poco tempo. Però la questione è che la destituzione per incapacità morale del presidente Martín Vizcarra, che già a sua volta era un sostituto di Pablo Vichisqui, che era il presidente eletto, che nel 2018 era stato accusato di uno scandalo, di essere dentro lo scandalo Odebrecht, che impazziva un po' in mezzo all'America Latina, lo scandalo di bustarelle, di compravendita di politici per costruzioni di infrastrutture un po' in tutta l'America Latina. Ecco, Martín Vizcarra è stato destituito con questa formula un po' curiosa, incapacità morale, dal Congresso Nazionale, che è il Parlamento. Cos'è poi questa destituzione? Il problema fondamentalmente è il presidente in maggioria, ovvero sia un presidente che in Perù è successo altre volte, non ha maggioranza in Parlamento, e quindi il Congresso costituzionalmente ha la capacità di destituire presidente, di porne altri con grande nonchalance. Quindi il fatto che Manuel Merino, che è stato il presidente che costituzionalmente poi è seguito a Martín Vizcarra a livello costituzionale in quanto presidente del Congresso, ha causato un'esplosione di proteste callejeras, quindi di proteste popolari, non tanto per la destituzione di Vizcarra, ma per la facilità appunto con cui il Parlamento può deporre e riporre presidenti. Quindi dopo 2 giorni di manifestazioni con 2 morti e la riproposizione poi anche del motto "che se vayan todos", che avevamo sentito anche in altre occasioni in America Latina, "che se ne vadano tutti", il Congresso ha accettato la rinuncia di Merino e si è insediato proprio ieri come presidente Francisco Sagasti del Partito Morado. La reazione popolare adesso è abbastanza tiepida, anche perché Sagasti è comunque parte integrante di una istituzione che è profondamente screditata agli occhi dell'opinione pubblica nazionale, e questa crisi non è un problema poi congiunturale, ma è fondamentalmente strutturale, si deve a diversi decenni di gestazione di un sistema politico profondamente corrotto, il cui inizio, la cui gestazione appunto di questa corruzione è assolutamente trasversale nel sistema politico, si deve già almeno a una ventina di anni, se non di più, dai tempi di Fujimori. Ecco, è il discredito quindi del sistema dei partiti tradizionali, che è attanagliato da una corruzione appunto endemica, e la conseguente intensissima crisi di rappresentatività, no? Di una cittadinanza che non crede più alla capacità di questo sistema politico di generare anticorpi contro la corruzione e che quindi possa trovare soluzioni per ridare al paese una possibile prospettiva democratica e di inversione di tendenza rispetto alle ultime 2 decadi, insomma. Quindi Sagasti adesso ha 3 obiettivi fondamentalmente: organizzare nuove elezioni innanzitutto in meno di 6 mesi, in un contesto in cui il Covid è ancora molto forte, e infatti il secondo obiettivo è quello di arrestare un po' lo sviluppo fortissimo della pandemia nel paese. Il terzo obiettivo è cercare di arrestare la profonda crisi economica conseguente appunto all'evolversi della pandemia di Covid nel paese. Il tutto in un contesto in cui c'è una pressione della società molto forte, perché a questo punto i disordini in strada sono stati molto forti nei 3-4 giorni in cui appunto le piazze si sono riempite contro, per l'appunto, questa situazione politica e questa crisi istituzionale che pone il paese realmente potenzialmente in un caos generalizzato. Sono state evocate diversi concetti, diverse parole chiave in questi giorni. C'è chi ha parlato di golpe per quello che è successo appunto con la destituzione di Vizcarra, ma anche chi sottolinea come quello che sta accadendo nelle piazze possa dare avvio a una sorta di percorso costituente simile a quello che è accaduto in Cile, sta accadendo in Cile. Sei d'accordo? Sarà così? Direi di sì. Guarda, poi Martín Vizcarra, a dire la verità, già dal 2018 aveva proposto un referendum con dei cambiamenti costituzionali per togliere questa prerogativa assolutamente bizzarra da parte del Congresso, attraverso quindi accordi di alcuni partiti anche ideologicamente distanti, ma che portano avanti magari i loro interessi congiunturali, di poter fare il bello e cattivo tempo sul altro apparato appunto istituzionale, ovvero sia quello dell'esecutivo. La rimozione di Martín Vizcarra, che tra l'altro è stato accusato senza prove praticamente, è stata proprio in verità proprio come un colpo di Stato, tra virgolette, perché colpo di Stato è un concetto poi che ha anche le sue caratteristiche, e però ha scatenato immediatamente delle grandi proteste popolari proprio proprio soprattutto quando Manuel Merino, appunto, che è l'oppositore di Scarra, è stato posto alla presidenza. Quindi di fatto poi Merino era un governo di estremissima destra, parliamoci chiaro, con sostegno di ammiragli della Marina Peruviana, che è un corpo assolutamente fedele a principi, a disvalori, insomma, che conosciamo bene dagli anni 70 in poi in America Latina. Ecco, quindi il 15 novembre si deve proprio a questo, il sesto giorno di proteste, con una destituzione appunto del presidente e la polizia che interviene con forza, causando proprio due morti, eccetera. Quindi in questo sicuramente c'è da dire che questa crisi dei partiti politici è molto vecchia, già, dicevo, prima negli anni 80, quindi approfondita poi dalla presidenza Fujimori, dall'autogolpe del 92, poi negli anni 2000 con la corruzione assolutamente generalizzata, appunto, come citavo poco fa, dello scandalo Odebrecht, e quindi la frammentazione di un panorama elettorale in decine e decine di partitini e cespuglietti, che ha frammentato il sistema politico peruviano, ha creato una sorta di mercato elettorale. Considera che adesso ci sono 24 partiti in Perù e ci sono per le prossime elezioni a presidente almeno 20 candidati, e quindi sicuramente una situazione con un sistema politico che è assolutamente inaccettabile. Si parla almeno di una barriera del 5% per i partiti, l'abolizione del divieto di reelezione per creare in qualche maniera un sistema politico che è attualmente impazzito.